lei sa che col sistema contributivo che abbiamo approvato, lei sa dopo 5 anni quanto guadagna un deputato a 60 anni, a 65? 800 euro, e dopo due legislature le guadagna 1.300. Allora, sì, però Mazzocchi, lei non mi faccia intenerire così, perché 800 euro per avere fatto una legislatura di... Sono d'accordo, una ha tutta una vita però, per farsi una pensione. Io le faccio un esempio, bravo ragazzo tipo Renzi, che a 30 anni fa il deputato e che non ha ancora un posto di lavoro, per due volte ce la fa, alla terza volta non ce la fa. Fino a 60 anni non prende una lira, fa il barbone. No, non fa il barbone, fa quello che faceva prima, fa il sindaco, no, fa un altro lavoro. Un ragazzo di 30 anni ancora non ha trovato posto di lavoro, che mi sta dicendo? No, ragazzo di 30 anni si è laureato appena. Sì. E quindi uno che a 30 anni fa una legislatura, mi scusi Mazzocchi, ma no, qua siamo, è incredibile, cioè lei sta dicendo che uno di 30 anni che fa una legislatura poi nella vita non dovrà lavorare mai più? No, io le dico, se lo fa due volte, poi a 40 anni, voglio vedere come fa a inserirsi nel posto del lavoro, soprattutto in questa situazione, ma le voglio dire... Io ho l'impressione. Però mi faccia il caso di un deputato che ha questo problema, allora glielo pago io personalmente lo stipendio. No, perché noi abbiamo deputati che sono alla quarta legislatura, è diverso. Un esempio, sono d'accordo, esempio pratico, che non si può fare doppia professione. Io sono un avvocato, lei andrà a vedere all'ordine degli avvocati di Roma. Io appena eletto deputato mi sono cancellato dall'ordine, non faccio più l'avvocato. Vabbè, faccio l'avvocato, ma io non lo faccio da 20 anni. Secondo lei, una persona che da 20 anni con la magistratura che giornalmente giustamente fa delle nuove sentenze, secondo lei dopo 20 anni uno che non ha fatto l'avvocato può rifare l'avvocato o deve rimettersi a studiare? Cioè mi sta dicendo che lei rischia di essere un disadattato? Per forza, ma scusi, dopo 20 anni che però non faccio scusi, la professione. Dopo 20 anni quante legislature sono trascorse? Almeno 3. E allora la pensione di quanto è? Me lo faccia lei il conto? La pensione? Dopo 3 legislature? Esattamente, credo, sui 4.000 euro. E allora non credo che si possa creare un problema per questo. Insomma. No, ma perché lei mi diceva ritorni a fare l'avvocato. L'avvocato non lo posso ritornare a fare. No, ma è lei che ha posto il problema di chi poi rimane senza parlamentare, senza lavoro.